sangue che mi brucia. E Beto. Buonasera. Buonasera anche a te. Come va? Un pedo buono, un pedo di niente. Addirittura, come qui là, quei famosi. No, di là di Anna. Certo, a me. Vieni poi di Dio, certo. Oh, yeah, stiamo andando bene questo periodo. Cosa vuoi fare? Dal caldo, dal freddo, dal freddo, dal caldo. Se la via ne muovete bene la giornata. Stiamo andando bene, già, purtroppo. E Gian Maria, non l'ho più sentito. L'ho sentito poco fa, l'ho sentito. Quando comincia a stare più bene, entra. Ah, non è stato bene? No, è ancora... Ancora influenzato e quindi no, non sono assente. È più vecchietto di noi, infatti. Qualche anno in più già ce l'ha, ma comunque, l'importante è essere tranquilli. Infatti. Io dico, mezzogiorno, faccio una reci tappata. E devo andare da a Torino, gatta, e ancora no. Ma la tua via libera, non mi sa che me ne sa pure io, ci perdisco. Si possono fare artigianalmente certe cose, però non te lo consiglio perché si è fatto da un esperto, sono d'accordo. Si è fatto da te così, se non lo sai fare bene, ti dice di fare danni, e quindi conviene sempre intervenire con un medico, capito? A mio parere. Ho telefonato a quello a pagamento, a me l'ha dato ma fine dell'altro mese, gente, allora c'è fino a fine dell'altro mese, curare ci da fate. E si è andato bene, tra un mese, e se sono impegnativo e tu le prendi e te le danno all'anno prossimo. No, non ce n'è per niente, neanche all'anno prossimo, non ve ne fa nulla, ma di tu, non ve ne fa nulla. Agito, cacca, cosa c'ho? Agito, tutto già si arriverà a curare ci da fate. E io c'è una scusa. No, io si possono fare, solo che ti mandano magari al numero, perché pure in un'altra struttura, a Oristano, però è andare a Oristano, cioè non stai andando da Sassari a Portotone, sono molti chilometri, poi il tempo, tutto un casino. No, già c'è, ma adesso dice, già c'è, a Coso, a Itri, ha detto già c'è, però bisogna aspettare, mi ha detto, cavolo, bisogna aspettare. Lei mi sta dicendo che c'è, però è come che non c'è la giudizio. Dice, mi dica direttamente, non ce n'è il bu. No, io sono una massa di pagliacci, non vogliono fare niente la mattina o la sera. Vogliono aspettare lo stipendio e basta. Già si è capito questi medici, questi pochi che sono rimasti, come si stanno comportando. Sono una zanzara. Infatti l'ha detto, dal mio coso non aspettatevi più che paghi il contributo per i medici, così. Non aspettate più quello perché non ce ne sarà più. E se tutti fanno come lei non lavoriamo più allora. E tanto se di bugie ha detto, state scappando, quei poveri medici che sono rimasti sono anziani, quindi se ne vanno via presto quelli e non ci abbiamo più sanità. Cosa volete fare? Siete voi che state scappando, no, mica noi. E allora, perché poi molti medici, che devo dire la verità, che non sono molto esperti, questi giovani, sì, i giovani sono giovani, però non hanno esperienza e cominciano a tergiversare, con un diagnosticano nulla, passano la palla a un altro, l'altro è peggio di lui, e cercano di temporeggiare così, alla fine non si protegge, noi non siamo protetti, cioè il culo magari ha bisogno. Fate così, se hai bisogno, devi pagare, però devi agitare. Ecco cosa è, perché non c'è posto neanche lì. Ma guarda, a mia figlia devo accompagnare a loro a fare la resonanza magnetica. Lo volevo fare all'Alghero. All'Alghero poi non so com'è, si è guardato l'apparecchio e così è trascorso altri 2 mesi. E praticamente a settembre, sono gli altri mesi, settembre, a giugno si passa l'anno, ma una risonanza magnetica che si deve fare, se il medico, il professore ti ha consigliato di fare una risonanza, vuol dire che bisogna farla, ma quella la devi fare subito, non puoi aspettare mesi o anni. Possono succedere cose più gravi, boh, io lo so, anche loro sono un po' scatenati. Infatti è così, ti fanno aspettare e a voi si sa che se sei vivo si riesce a farla, se non vi riesci, boh, non si capisce più nulla di questa sanità che sta succedendo qua in Italia, ecco cosa è, non si capisce più nulla. È frutta, non vi dava intesa, siete tutti malati, senti. Perché se tu vai ad esempio a Verona, a Parma, a Pavia, in quei posti lì sono abbastanza la gentilezza che hanno questi infermieri e anche i medici, sono più disponibili, i nuovi sottobusici non si danno soddisfazione, ma sono, sembra che siano il Presidente della Repubblica, vai a fare una domanda e ti scartano, ti dicono no, non abbiamo tempo, venga domani. Tutte queste stupidaggini che non servono, se tu ti sto chiedendo una cosa dimmela subito, oppure mi dici guarda, c'è un ufficio, non venga tra un'oretta, cioè queste cose invece non sono elastiche, sono, ti rompono, ti annullano subito. Fate così, Natali, è una cosa ingiusta, ritirato direi che sono goccio. Eia, sono andato e l'ho ritirato. Dimmi giù a ritirare un rapporto, mi sento cadici sì, a Olbia, ragazzi. Ma... Non preso uno da Natale di chi ci credi tu, ci hai capito nulla. Come, ottore? Ecco, con le voci che c'erano a casa tua, non ci hai capito nulla di cosa hai detto. Aspetta che cambio il microfono. Eia. E andiamo bene, andiamo qua. E purtroppo la sanità è così, non si può fare più nulla. Ecco già, mi chiedi di Vilampaghi, che ciao Natalino, come va? Aspetta che stai cambiando il microfono. Potrebbe andare meglio. Meno male, e qualche volta sei un po' non scettico. Gioia. Se mi hanno ordinato di fare un attacco e sono dovuto andare a Olbia e dopo sono dovuto andare anche a ritirarmi il referto perché via internet non te le danno quelle radiologiche, capito? Ma va bene, la sanità lo sfascio c'è. Cioè. Ma dove sei andato Olbia? Al Mater? Sì, al Mater Olbia sono andato. Lì sono... ormai, prima era tutto gratis, ma devi pagare. Guarda, anche io ero andato 2 anni fa a fare una Verona, c'era... Sì, quest'anno, tra un paio d'anni massimo, si è sviluppata una corrida a questo ospedale. Prima era vuoto. Il fatto che io sto male, sono arrivato a pezzi lì a Olbia oggi, mi ha accompagnato un amico, perché io da solo non me la sono sentita, guarda. Sono arrivato in Chibi a pezzi, a dolori, perché ho dolori forti, è quello. Ma cosa ti hanno diagnosticato? Cioè, la risonanza deve fare? No, l'ho già fatta, l'attacco. E sono andato a ritirare il referto stamattina, perché via internet non te li danno i referti radiologici, capito? Ho capito, però prima li davano, fino a 2 anni e mezzo fa li davano, se la facevano lì a distanza e poi se la consegnavano. Adesso invece hanno cambiato, e tutte spese, andare e tornare. Sì, oltre le spese mi hanno fatto aspettare 7 giorni prima di essere pronto il referto. Manca pagamento qua, me ne hanno voluto fare perché c'era il contratto, e quella col contratto la devi fare solo in ospedale, capito? E un macello, guarda. Ne devo fare un'altra di TAC, ma non c'è posto. Boh. Beh, a Nuoro sì, a Nuoro sono più liberi. Ora c'è un casino andare lì. Poi vieni in Nira, non ando via né sul lucro. Vabbè, però se te l'hanno fatta fare, devi farla, e cosa sai? Sono molte volte sono cose che bisogna sapere anche cosa c'è. Se riesco a rimanere vivo non faccio più nessun esame e mando tutti a fanculo. Oh, yeah. Mamma mia, anche tu sei, tu sei un po' come me, mamma mia. Aspetta. Sì, Natalia, si fai così, deve arrivare vivo e delle cose o no? Ma come la città conviene? Se verdeci la vai, se non verdeci pazienza. Si la posso canduso cumuccio. A chi no che si tratta di farla canduso cumuccio? Cazzo, non uso qui come ti dici quasi, i posti non ce n'è per fare ta. Quello è. Bisogna che ti ferisci prima. Ed è così, io di non vedere ne già quello che ne parli. Che chiamo io? E vai con quella. Oh yeah, fine minira. Oggi solo per andare a Olbia. Quando sono arrivato all'ospedale, quando stavo aspettando lì che mi chiamassero perché lì c'hanno un'organizzazione paurosa, sono bravissimi al Materulbia. Questi dolori e non te ne dico nulla. No, lì sono bravissimo, lo so, io ho portato mia figlia, adesso l'hanno organizzata a Sassari, l'endometrosi, l'hanno organizzata a Sassari, però gli stessi medici che erano a Mater, questa dottoressa che era, viene da Verona, si è organizzata adesso a Sassari, per conto suo però, prima là era gratis con la ricetta portata dalla UL, no? Dall'altro. Adesso invece devi pagare qui, però se devi pagare dietro 100 euro o 150 euro, ma che bisogna, perché tanto gli redditi si vogliono prendere unghie, allora tanto vale tu, non ti muovi, vieni qua e te la fai così. Fini minira. Sto andando anche a pagamento a fare gli esami, un'ecografia 150 euro e poi non ne avevo nella carta io e glieli ho dati contanti e non me li posso manco scaricare, figurati, perché devono essere tracciati i soldi, secondo Ruga Budelli, andava e quelli me li sono persi. All'oculistica sono andato cazzo a pagamento lo stesso. Ma cosa vuoi ti dica? Tanto posti non ce n'erano e sono dovuto andare a pagamento per forza. Siamo messi bene già. No, tu non hai questi problemi qua, no? No, bilancio di buio i problemi. Adesso per il diabetico, non c'è medico. Adesso che la città mi mettono un medico per fare la visita, hai compreso? Non c'è medico, non c'è. E quindi non si sa che hanno rubato. E adesso quando mettono il medico a farti il piano terapeutico, lo sai che ci deve pensare? Il medico di famiglia ti dà un foglio, il diabetologo, e l'autorizza a farti il piano terapeutico, come hanno fatto a me. Hai capito com'è il discorso? Si misero i barendi di tutto. Tu li vedi lì, si guardano uno con l'altro, senza combinare niente. E pazienti lì con dolori atroci, ma per carità è vero, guarda, fanno schifo. A me la diabetologa mia mi ha dato un foglio da consegnare alla mia dottoressa, quella di famiglia, no? E quindi il piano terapeutico me lo fa lei. Cosa vanno a fare da questi diabetologi, non lo so. Boh. A peso mio si iniziò tutti i bugenti. Ma guarda, i diabetici ce ne sono tantissimi, io ne conosco. avuto amici che anche quello che sto suonando adesso nel gruppo è diabetico, fa 4 insulini al giorno e poi c'è un disastro, non possiamo andare da nessuna parte, perché questo ogni 4 ore deve fare cose, deve contenere. È pericoloso, è pericoloso. Ma adesso hanno fatto dei passi da gigante per la diabete. Non capisco come mai ancora c'è questa precarietà, non riesco a capire. Oh yeah, tutti fuggendo se ne stanno, perché non li pagano. E se ne vanno fuori. A Vesumio vivono 20.000 medici. Sono al di sotto di 20.000 medici. Figurati, perché c'è il caos, che non ci sono liste impossibili di attesa. Proprio per quel motivo, perché non ci sono medici. Allora, il discorso è semplicissimo. Questi medici se ne vogliono andare, ma non è che non sono pagati. Sono pagati, ma poco rispetto agli altri stati. In Francia pagano di più, in Germania pagano di più, e quindi loro se ne vanno, dovrebbero pagare di più. Ma non è che non sono pagati, non è che con quella paga muoiono di fame. È che sono gelosi e vogliono essere pagati di più. Tutto qua, non è che non sono pagati. E non è vero che sono sottopagati, sono pagati, vanno bene, e che vogliono guadagnare di più, tutto qua. E vabbè, e cosa vuoi che ti dica io? Posso confermare quello che sta dicendo tu, però confronto alle altre nazioni sono pagati poco qua. È per quello che se ne stanno fuggendo. Un amico mio che è appena laureato, mi se ne è fuggito in America, è stato 30 anni in America. Chissà ritirà chi si ha fatto. Beh, sono pagati di più, non c'è niente da fare. Però sono pagati di più, ma lavorano anche di più, mi sa, perché questo lo so di certo, di amici che hanno figli che stanno là. Però siamo sempre lì. Cioè tu lavori di più e viene pagato di più. Se uno lavora in un'azienda e anziché fare 8 ore ne fai 10 e ne fa 12, viene pagato di più. Guarda, io c'ho un amico mio che è psichiatra infantile e lavora qui in ospedale, lavora, dice che stanno facendo turni massacranti, massacranti, mia, cosa vuol dire? O c'hanno tutta la lì, o 12 ore, da voi si deve arrivare a notte, un macello. Se ne stanno fuggendo anche per quello, perché stanno facendo dei turni impossibili. Attento. Sì, purtroppo è così. Purtroppo è così. Diabetologi, quella che c'avevo io se ne è andata in pensione. Allora, non abituro a andarci, ne ha manco avvertito, tia. Ecco cosa è. Da settembre che è ambasciato la visita a Gonello. Poi mi ha dato il numero e fa cosa mi deve darmi. A chiamare che non bisogna più. È tutto fatto con scopo, non hai compreso. Cosa ne da putti, non le paro dubito di andarsi in pensione. Vabbè, adesso lo rispondo io. Allora, il mio medico, che ormai aveva già 72 anni, se n'è andato e mi ha abbandonato. Ma se n'è andato all'improvviso, la fregatura che abbiamo avuto tutti quanti, anche perché con questo qua, era roba a scuola, cioè, abbiamo fatto l'industriale, cioè, questo qua poi è passato e ha continuato gli studi e è diventato meglio. Tu mi dici, ma che problema? Il problema è che quando io l'ho avuto per 35 anni, medico di famiglia, ha bloccato tutto, se n'è andato, e però non è che se n'è andato in pensione del tutto, no, si è aperto un ufficio a conto suo, come professionista, e tu quando vai devi pagare. Ma se n'è andato all'improvviso, ha mollato tutti quanti, e aveva più di 3.000 pazienti, anche se più di 1.500 lo possono avere, questo mi aveva tantissimo. Eravamo amici, a meno a dire agli amici, proprio quelli fedeli, guarda che io dal 1 dicembre sono in pensione. Invece, se non mi sono preso un ufficio figlio, è stata una bella casa, Scusa un attimo, c'è un QTC qua. Vai, vai. Mi sto guardando l'agenzia di Finna, quella di Montegrappa, l'ha incendiato il locale. l'agenzia Motegrappa. E che luca è? Non basta. Agenzia Pinna. Ha incendiato il luca e ha incendiato. Ah sì, l'ho visto stamattina. Una notizia nuova questa, no? Perché poi mamma mia? La bottiglia incendiaria l'hanno rampato. Se c'è una guerra con te ci fa, se ne va. Sì, ma il motivo quale può essere? Ho già fatto il funerale a qualche parente troppo alto, boh, non lo so. Come era morto, tempo fa era morto il cugino, era morto. L'ha aperto quest'altro cugino, l'ha aperto, che l'ha serrato. Ha messo, l'hanno bruciato il locale. Chissà perché, chissà quale sarà il motivo. Ah, io non vedo in mezzo, si arrangiano. È bellissimo, però poverini, già c'era una discriminazione, che una volta, mi ricordo, lì all'ospedale civile, della Camera Mortuaria c'era una zuffa di perché volevano contenersi un morto, per carità, e poi alla fine quindi è arrivata la polizia. Cioè, ma arrivare a questi livelli non è possibile. Non è arrivare a questi rimedi, è puro. Gli si ammazzano di canto un pari. Finché ci ammazza niente non succede nulla a noi, quindi è meglio vedi ti appena con degli altri gli vendini. Cosa so? E chi è? Dimmi care. Natalino sono, e qua non hanno fatto un'altra rapina, questo tabacchino c'è sotto qua, solo che il rapinatore si è trovato male, cazzo è entrato armato e tutto, e ci dà chi dà da romanco, dirà che tu roba di sussa, cazzo. E riesci da fuggissini però. Niente, dai. Ci sa che stavo appunto in giornale. Ah, vediamo domani in giornale. Certo, a meno che non lo vadano. Domani a mangiare non lo vadano. Hanno del giornale. Oh, andare, andare. Dell'agenzia Fune per via Montegrappa che l'hanno bruciato un locale. E boh, quello non lo sapevo. Questa della rapina è una che fa le sostituzioni, non è neanche fissa lì. È una di Oristano, no? Che ha mandato il principale a sostituire. Cazzo! Però è metà di Riusa. Cazzo, gli ha tirato questa sussa al rapinatore. Non è conveniente il su. Peggio maedo, non è conveniente. Ma era già pigliato una sussa, altro che il rapinato è rimasto. Certo. Sì, infatti ieri notte c'erano i carabinieri, no? Per sapere la situazione. Sai che era? Ah, ma ci sono prendere un giro a te callo a Gesù. Boh, cosa ne so? Le indagini staranno facendo. Disigli è incappucciato e armato. E Paghissu gli dà e ci dà pure la roba, come mica l'ha intimorita la pistola, l'ha preso cazzo, e l'ha picchiato forte. Aiuto, dai, dai, bobo. Ma non mi ha messo bere il nonno, me. Ma tale mi ha fatto bere il nonno. A cui fa mia, no? Se hai la memoria labile. Curai. Oh, a cosa, vera? A farlo andare da nata. Vittorio? Vittorio, per riprendi. Già la stiamo sentendo quelle notizie, già. Per carità. Purtroppo, che poteva essere se non era un tossico? Non ha reagito perché è stato che ha reagito, gli era un schiaffo. Lui ha pigliato per fuori, poi si vede che quella tipa era un masciotto, era molto male il cazzo gli ha dato una bella tuta. No, gli fanno bene. Roba di Susa. Una gavadona, Emi. Una di Oristano, e questa sostituisce lì, non è neanche fissa. Una così ci vuole, cazzo. Così imparano ad andare a fare le rapine. Sarà stato anche tu sì così. Digli di cazzo una misura di giocattolo. Certo, perché avesse paura la ragazza, invece si è trovata un maschietto. Giusto. No, ma ne sono contento di questi episodi. E anche io. Mi è capata la risa quando me l'ha detto le moglieri. Certo. A me mi sono capelli la risa. E noi anche andiamo per andiamo. E non è andato che alcuno vivo a pigliare colpi. A quella lì gli manca solo qualcosa di pendente e basta. Però il resto funziona tutto. Dai, dai, noi andiamo per andiamo. E allora? Così voglio, una delle curiose, gà. Sì, sul negozio, compagni, mi sono da pacchino, va, per da sarane andare a furare il cibo. Sì, su che. Quella lì non la puoi mettere fissa lì perché è di fuori, è di Rizzano, Emmi. Capito? La prima rapina che gli hanno fatto, quella che c'era, cazzo, se n'è anche andata, di quanto si è spaventata. E infatti, a me mi pare che si è assustato che ci ha pigliato colpi. E chi ci ha pigliato sul comaro, Salvatò? E mamma mia, ha pigliato colpi, ha pigliato, è forte il muro. Anzi, invece il rapinato è rimasto il rapinato. E allora? A quanto ha fatto a fuggirsene? A provarci un vado poco, no, che invece ha tutto con buglioni. Non credo che ci torni. Già lasci tutto gonfio avanti, già l'hai uscito. Ma va detto. Ah, Natalia, tutto gonfio ne è uscito. Io dico che già l'ha spassata buru. Pur a fare la canna della droga di già la passata della giusta che ha pigliato e la cutuvoci mi la digerita bella digerita è rimasto se ti voglio mamma c'è con tutto gonfio tu la giorni di fitto no sto ancora dicendo perché uno deve tornare a casa dice ma cos'è sono caduto dalla moto piaccia. Ma te si dice che c'è sul zesso no nuda ci piglia due colpi e girando ho sbattuto contro una porta. Ma che Gianna era chissà che Gianna chissà che trocco ne le farà di Nantu e l'ha gonfiato ma l'ha detto cazzo che tra me ne è brincato di Nantu cazzo che vede da ridere bubù dai dai e sì. Mi ne è capata la risa quando mi l'ha detto mia moglie che... Ma vogliono così, cazzo, belle amprose. Perché c'ha più di bisogno di invece. Già ha bisogno di giovani da macchine, ma anche che invece per pure. Già lo so, però mi ha fatto burumare a reagire. Ma cosa fare con tu chi la pistola era vera e la dirava? Lo raffinatori. Chi su va via, la missione del giocattolo, lo dirò di cui, sarà lasciato anche tossico. E di sicuro sì. Se non ha reagito, va via la missione del giocattolo, e che ti ha pigliato, ha fatto una giusta. Adesso te lo do io, ma non tanto. Penso che. Perché uno non deve reagire se ti minacciano, perché può succedere qualcosa di brutto. Mi dà una pigliata su Ciumaro la prima rapina l'hanno fatto. E il principale la prima licenziata, dimmi tu. Va bene Natalia, ci risentiamo alle prossime. Ciao Vito, alle prossime. A risentirci. E grazie della chiacchierata. Alle prossime, ciao a tutti. E anche gli ascoltoni con le orecchie lunghe lunghe. Sì. quelli già lo so che ci sono quelli con le orecchie lunghe. Ciao Salvatore, buon proseguo di serata, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime, avanti Vitù. Grazie anche a te, ho tolto la chiacchierata, buon proseguimento e buona carica poi, per tanto questo che si fa dopo questo radio qui. Ci sentiamo alle prossime, buon proseguimento, ciao ciao. Ciao Vitù, anche a te alle prossime. E quindi uno